Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Vinceremo noi, sicuro, sicuro, non abbiate dubbi, non abbiate dubbi. E poi le macerie ce le prenderemo noi. Muratori, idraulici, elettricisti, è la vostra ora. E questa specie di annuncio per elettricisti, muratori, eccetera, l'ha fatto, avete sentito naturalmente riconoscibile la voce di Beppe Grillo, che oggi ha fatto un giro negli scavi di Pompei a proposito di macerie, intendeva anche come metafora le macerie del paese, quindi sicuro di sé di vincere alle europee. Toccheremo anche questo argomento con un altro partito anche questa sera per mantenere la par condicio. E poi c'è però di fronte alla sicurezza di molti, di qualcosa che potrebbe cambiare, anche l'OCSE, l'Organizzazione dei Paesi più sviluppati, che ritorna un po' però sempre con la solita cantilena, nel senso che oggi ha detto l'Eurozona finalmente vede la fine del tunnel, però poi ha aggiunto ci sono piccoli progressi su conti, riforme, tuttavia l'attività economica resta diseguale e fragile, quindi sono continui, come possiamo dire, stop and go si direbbe in inglese, quindi un po' di ottimismo, un pochino di incoraggiamento e poi però dicendo però la situazione è ancora questa. Poletti stesso riconosceva ieri che la disoccupazione o l'altro ieri ancora per il 2014 sarà molto pesante. Insomma, tanti i temi oggi, è una giornata piena anche di temi politici che affronteremo poi dopo il riassunto della giornata. Poi ci saranno anche altri argomenti. Avete sentito anche dell'incontro che c'è stato ieri, ve ne raccontavo nella puntata di ieri, tra Napolitano e Berlusconi, un po' a sorpresa rispetto, diciamo, all'opinione pubblica, ai giornalisti eccetera. C'è anche di mezzo la questione di un possibile atto di clemenza. Ritenete che possa essere fatto, possa essere opportuno nei confronti di Berlusconi da parte di Napolitano? Uno dei tanti temi, ma intanto vediamo quali sono i fatti principali. Province, l'abolizione e legge, via libera definitivo alla Camera, Forza Italia grida al golpe. Costo del denaro, la Banca Centrale Europea tiene i tassi allo 0,25%, pronti a misure non convenzionali, dice Draghi. Nicola Cosentino in manette, l'accusa di estorsione di concorrenza illecita. Voto di scambio, la Camera cambia il disegno di legge, pene più basse, il minimo passa da 7 a 4 anni, viene eliminato anche il principio della punibilità del politico anche se si mette a disposizione dell'organizzazione mafiosa. Immigrazione, Alfano lancia l'allarme, ci sono 300-600 mila immigrati pronti a sbarcare in Europa, ma il Consiglio dei Rifugiati replica sono stime inverosimili. Breve visita di Elisabetta a Roma, pranza con Napolitano e fa tardi dal Papa. E per il calcio una serata di Europa League per la Juventus, nell'andata dei quarti bianconeri sono ospiti dei francesi del Lione. Partiamo quindi dalla riforma delle province, perché al momento in realtà non si tratta di una vera e propria abolizione, una riforma, si tratta di istituzione delle città metropolitane, ridefinizione del sistema delle province e una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni tra i comuni. Sono infatti questi i punti principali della legge Delrio approvata oggi in via definitiva dalla Camera. È un primo addio alle province, almeno a come le abbiamo conosciute finora, quello previsto dal provvedimento Delrio che ha ottenuto il via libera definitivo della Camera. Il testo, non potendo infatti cancellare le amministrazioni provinciali, le svuota di competenze, contestualmente arrivano le città metropolitane e le unioni tra comuni. La riforma scatterà dal 2015, non si voterà intanto a maggio di quest'anno in 52 province in scadenza, queste saranno rette da commissari. Si tratta di un cambiamento vero, rivendica dal governo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio. È il paese che si trasforma, quello che volevamo. A favore hanno votato PD, Nuovo Centrodestra, Scelta Civica e Popolari per l'Italia, contro 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Lega, SEL e Forza Italia. Brunetta parla di golpe. Questa legge, che io spero non venga mai promulgata, è un mostro in combinato disposto con quell'altro mostro della riforma del Senato. Le critiche di Brunetta anche alla riforma del Senato, testo che non piace però alla minoranza PD di Palazzo Madama, 22 senatori firmatari del testo Chiti, che prevede un Senato delle autonomie con una parte di eletti. A chiudere a quest'ipotesi è intanto il ministro per le riforme Boschi. Sul Senato elettivo al momento non ci sono spazi, perché è uno degli elementi che è stato discusso nell'accordo tra tutte le forze politiche che riguardava legge elettorale e riforme. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ieri, come dicevo, c'è stato l'incontro proprio sulle riforme, almeno come tema principale più ufficialmente, tra Napolitano e Berlusconi. Intanto su questo tema delle riforme è partita aperta con Renzi, che oggi ha incontrato Verdini. Nel frattempo arrivano pesanti attacchi dal Movimento 5 Stelle. Da un lato il patto del Nazareno sulle riforme, dall'altro il nodo dell'agibilità politica di Berlusconi in vista del 10 aprile, quando i giudici decideranno se mandarlo ai domiciliari o in affido ai servizi sociali. Sarebbero stati questi i temi al centro dell'incontro a Palazzo Chigi fra il premier Renzi e gli emissari del leader di Forza Italia, Verdini e Letta. In cambio di un rinnovato sostegno alle riforme, i due avrebbero chiesto garanzie sulla possibilità per Berlusconi di restare sulla scena politica almeno fino alle europee. Lo stesso avrebbe fatto l'ex cavaliere nell'incontro chiesto e ottenuto ieri al Quirinale. Stando alle indiscrezioni, in entrambi i casi le richieste sarebbero cadute nel vuoto. Nel frattempo continua ad alimentare polemiche la salita del leader di Forza Italia al Colle. Dura la presa di posizione di Beppe Grillo. È una cosa vergognosa che un condannato venga ricevuto dal capo dello Stato, tuona dal suo blog il leader del Movimento 5 Stelle. Lo scorso luglio Napolitano aveva ricevuto un altro condannato, si chiama Beppe Grillo. Grillo è la pronta replica del PD. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Si procede intanto anche sul fronte dei tagli. Arriva infatti la spending review, come ormai si chiama, anche per i diplomatici. Anche sulla Farnesina si abbatterà la spending review e il piatto forte qui sono i tagli agli stipendi degli ambasciatori. Le cosiddette indennità di servizio all'estero subiranno una sforbiciata, ha annunciato il ministro degli esteri Mogherini, ma si interverrà anche sulla riorganizzazione della rete diplomatica consolare e culturale e sulla razionalizzazione del patrimonio immobiliare all'estero. I risparmi saranno di 16 milioni di euro nel 2014, 42 nel 2015, 52 nel 2016. Così il ministro a marzo della sua audizione alle commissioni esteri di Camera e Senato. Abbiamo annunciato una revisione della spesa di 108 milioni in tre anni, si aggiunge a una revisione della spesa che era già stata fatta dalla Farnesina negli anni precedenti, non sono tagli lineari. Rispetto al 2008, ricorda ancora il ministro, il bilancio però si era già ridotto del 25%, rendendo il Ministero degli Esteri tra le amministrazioni meno costose. Oggi il suo bilancio è pari allo 0,1 del PIL, mentre la Francia dedica la propria diplomazia all'1,8, la Germania all'1,1. Per Mogherini dunque il Ministero degli Esteri già opera con risorse ridotte a fronte, dice, di sfide crescenti. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ve lo ricordo, è per tutti i temi, in particolare alcuni, insomma, ma magari principali, c'è sempre la pagina Facebook per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure gli SMS al 349-238-6666. Ma andiamo avanti, dopo lo spread che ha invaso le nostre vite da qualche tempo, ora il nuovo spettro che si aggira si chiama stagnazione. La Banca Centrale Europea ha lasciato intanto invariati i tassi, mentre Draghi rassicura, pronti a misure non convenzionali. The Governing Council is unanimous in its commitment to using also unconventional instruments in order to cope effectively with risks of a too prolonged period of low inflation. Siamo pronti a misure non convenzionali, così il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi, dopo aver lasciato invariato allo 0,25% il costo del denaro, ha aperto alla possibilità di un allentamento monetario per evitare che l'eurozona scivoli nella deflazione, una situazione che viene monitorata da vicino da parte dell'Eurotower. C'è stato posto nella conferenza stampa anche per una polemica con i vertici del Fondo Monetario Internazionale verso l'FMI, che aveva chiesto alla BCE di agire contro l'inflazione bassa. Draghi ha lanciato una stoccata. Mi piacerebbe che il Fondo Monetario, ha detto, rilanciasse dei comunicati anche prima di una riunione della Federal Reserve. I consigli del Fondo sono stati definiti molto generosi da parte del governatore. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si torna a parlare di Alitalia e Etihad. Per l'accordo ci sono tempi stretti. L'offerta della compagnia araba, appunto Etihad, è attesa per domani. Oggi si è chiusa la fase di valutazione dell'azienda. Il 2013, se ne saranno accorti in molti, è stato l'anno nero per la casa, sicuramente per chi la deve vendere. Ha raddoppiato il calo dei prezzi. Se si avessero soldi a disposizione, sarebbe il momento migliore per comprare casa. I dati Istat sul 2013, diffusi oggi, confermano che i prezzi delle abitazioni continuano a scendere, una tendenza che si è affermata negli ultimi due anni. In particolare, il calo dei prezzi è più forte sulle vecchie case, o come vengono definite ora, case già esistenti. L'anno scorso i prezzi sono calati del 7% rispetto al 2012. Ma a scendere stavolta sono anche i prezzi delle nuove costruzioni. meno 2,4%, quando fino al 2012 erano stati in crescita. In media, fra case vecchie e nuove, i prezzi sono calati nel 2013 del 5,6%, un calo raddoppiato rispetto a quello registrato nel 2012. Nonostante prezzi più contenuti, però, le compravendite stentano a riprendere. L'anno scorso gli acquisti sono calati di circa il 9% e nel 2012 c'era stato un crollo dei rogiti per le case addirittura del 25%. Le vendite dovrebbero cominciare a riprendere quest'anno, visto che sta crescendo la domanda dei mutui per l'acquisto casa da parte delle famiglie. A marzo la richiesta di mutui è aumentata del 10% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è un nuovo arresto per Nicola Cosentino. Con le minacce avvantaggiavano la loro azienda. Arrestati quindi i fratelli Cosentino, anche quindi l'ex sottosegretario del PDL Nicola. Per una questione di aziende di famiglia e la gestione illecita di impianti di distribuzione carburanti è tornato in carcere l'ex sottosegretario all'economia Nicola Cosentino, una storia che coinvolge funzionari regionali del comune di Casal di Principe e della Kuwait in una rete di coercizioni ai danni di altri amministratori e imprenditori per ottenere permessi facili a realizzare distributori o l'estromissione di possibili concorrenti. Complessivamente sono 13 provvedimenti cautelari eseguiti dai carabinieri di Caserta, due indirizzati ai fratelli del boss Michele Zagaria. Tra gli indagati vi è anche l'ex prefetto Maria Elena Stasi. Le indagini della DDA evidenziano le minacce fatte dai fratelli Cosentino nell'ambito di un sistema capace di incidere sul mercato, grazie al potere politico dell'ex parlamentare che aveva contatti con politici di primo piano anche mentre era ai domiciliari per altra inchiesta, e grazie al suo rapporto stabile con il clan dei Casalesi, i cui vertici avevano vietato estorsioni agli impianti riconducibili a Cosentino. I reati contestati vanno dalla concussione all'illecita concorrenza con violenza o minaccia, calunnia, estorsione, favoreggiamento, riciclaggio, con l'aggravante del metodo mafioso. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E oggi l'avete sentito, l'avete saputo, c'è stata la visita lampo praticamente di Elisabetta II a Roma, una visita di poche ore dove ha incontrato Napolitano, il Papa. Poi ne parleremo anche del rituale, di cose magari un po' meno in vista. Per chiudere lo sport, Formula 1, domenica c'è il Gran Premio del Bahrain, il terzo appuntamento stagionale, domani il via alle prove libere. Da Berlino intanto pare arrivare una buona notizia, si accende la speranza per Schumacher. Tutto quello che posso dire è che ci sono segnali incoraggianti. A queste parole, pronunciate da Sabine Kemp, la manager di Michael Schumacher, si aggrappano ora milioni di tifosi col fiato sospeso ormai da 94 giorni. Parole rilasciate al quotidiano tedesco Bild, che smentiscono il recente susseguirsi di voci negative sulle condizioni del pilota tedesco ricoverato in coma artificiale all'ospedale di Grenoble dal 29 dicembre scorso. Solo una settimana fa, ad esempio, l'ex capo medico della Formula 1, Gary Arnstein, aveva detto: è meglio prepararsi al peggio. La portavoce del campione 45enne ha anche negato che la moglie di Schumacher stia trasformando parte della villa di Ginevra in una sorta di ospedale attrezzato da 12 milioni di euro per portare a casa il marito. Schumi dunque continua a restare nella struttura francese, dove i medici hanno iniziato un lento processo di risveglio. Vero è che nulla trapela su questa fase e sugli eventuali miglioramenti del 7 volte campione del mondo di Formula 1. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per chiudere il calcio, serata di Europa League, vi dicevo, per la Juventus nell'andata dei quarti, bianconeri sono ospiti dei francesi del Lione, fieri di rappresentare l'Italia, così ha detto alla vigilia Conte, che in attacco schiera Vucinic con Tevez. La partita è iniziata alle 21:05 ed è ancora allo 0-0. Viabilità, aggiorniamo chi sta viaggiando, e poi per i vostri commenti vi ricordo sempre c'è la pagina Facebook di Effetto Noto, i messaggi al 349-238-6666 sui vari temi che man mano tratterò con gli ospiti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo insieme, adesso affronteremo diversi temi, vi ricordo tra poco prima di tutto quali sono state le notizie principali. C'è un tema in particolare, un argomento che riguarda un po' la passione di tutti gli italiani e il senso anche della sicurezza, che diciamo è il simbolo di qualcosa che si è sgretolato insieme ad altre certezze, no, negli ultimi tempi con la crisi. Ne parleremo tra pochi istanti, però intanto vi ricordo quali sono stati i fatti principali. Addio le province, ma Forza Italia non ci sta, grida il golpe. Renzi intanto vede Verdini e dice il patto reggerà. Avanti come un rullo, dice Draghi, governatore della Banca Centrale. Temo la stagnazione, pronti anche un acquisto di bond a tassi fermi, lo spread giù e l'Ocse dice il debito è gestibile con le riforme. E poi per quanto riguarda le altre notizie, immigrazione, Alfano lancia l'allarme, ci sono 300-600 mila immigrati pronti a sbarcare in Europa, ma il Consiglio dei Rifugiati replica, sono stime inverosimili. Breve visita di Elisabetta a Roma, durata pochissime ore, in cui ha incontrato Napoletano e poi il Papa. E per il calcio, serata di Europa League tra Juventus e Lione, sempre 0-0. E saluto Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Bentornato Alberto. Buonasera a tutti. Ogni tanto ci sentiamo, interrompo il tuo lavoro al Sole per portarti qui alla Luna di effetto notte. Alberto, senti, siamo, l'Istat te l'ha confermato, in piena crisi del mattone, no? Un anno nero per la casa è stato in particolare il 2013, che è passato da poco e ha raddoppiato il calo dei prezzi. Ed è praticamente il 2013 è stato un anno di saldi per le case, quindi si può vedere in due modi. Per chi la casa la deve comprare, probabilmente prezzi più convenienti; per chi la deve vendere o per chi insomma ce l'ha come investimento, come patrimonio personale, ha visto insomma amaramente una progressiva svalutazione, no Alberto? Esattamente, certo, sono le due facce della domanda e dell'offerta, anche se poi questo, soprattutto il mercato immobiliare, il mercato della casa, ha dimostrato plasticamente, direi, la famosa glaciazione della domanda interna, cioè nonostante la convenienza dell'abbattimento dei prezzi da parte di chi vende, ci sono stati pochissimi compratori perché sono crollate proprio le transazioni effettuate, cioè non è che il vantaggio che si è avuto sui prezzi ha aumentato il numero delle case vendute, tutt'altro. Perché? Perché non ho capito bene? Perché siamo in un momento di vera crisi di fiducia, quindi nessuno compra, certo, nessuno si espone, dice tiro fuori la liquidità, nemmeno per immobili che siano convenienti, perché o da una parte la liquidità proprio non c'è, perché l'altro, certo, chiaramente aspetto, l'altra faccia della crisi. Cioè, però anche dici, per chi ce l'avrebbe ha paura a usarli per quello invece di tenerli comunque, da parte. Sì, teme in ogni caso, o c'è un'aspettativa addirittura di un ulteriore possibile ribasso, che è poi il meccanismo che sta alla base della grande paura della deflazione, di cui ha così tanta paura la Banca Centrale Europea e non solo lei. E quindi insomma, diciamo, è destinato il mercato della casa a rimanere fermo ancora, ma anche se l'Istat diceva che c'era un leggero miglioramento. No, ecco, questo bisogna dire che è stato, questa è la fotografia dell'anno passato, che è poi giunta proprio oggi con il dato certificato dall'Istat, che ha registrato il crollo dei prezzi nelle case, che sono diminuiti del 5-6% in un anno, dopo che già nell'anno prima erano calati di quasi il 3%, quindi c'era proprio una tendenza all'abbattimento. Questo tipo di curva a ribasso è finita e sta ripartendo lentissimamente. I primi segnali di quest'anno sono in leggero miglioramento, in effetti, e c'è un indicatore che conferma un maggior interesse sulla compravendita immobiliare, che è la ripartenza mercato dei mutui. Beh, invece, no, dicevo appunto, sui mutui continua, cioè è un cane che si morde la coda, poi anche chi magari si vuole lanciare, volesse provare, no? Approfitto della situazione, del fatto che i prezzi sono ribassati, però poi c'è la difficoltà a ottenere un mutuo, no? Dalle banche. Quindi. Esatto, certo, questo è stato un po' sempre, possiamo dire che è stata la fotografia del 2013, è stata una grandissima difficoltà, c'è stata una clamorosa stretta anche sulla concessione dei mutui, un irrigidimento nella richiesta delle condizioni di base, nelle garanzie, nelle quantità erogabile e quant'altro, e anche nelle dinamiche poi dei tassi delle rate. Adesso però dobbiamo dire che dopo questi due anni veri di crollo vero e proprio, il bimestre gennaio-febbraio, come abbiamo scritto oggi su Sole 24 Ore, perché ci siamo occupati a lungo di questo tema nel giornale che è uscito stamattina, hanno erogato il 18,5% in più di mutui, e questo è un indicatore di una vivacità che francamente non ci aspettavamo neanche noi, un impatto così forte di una ripresa dei mutui. Questo è un indicatore effettivamente positivo, perché se riparte il mercato immobiliare ripartono tante altre cose che sono legate poi al bene primario che tutte le teorie economiche definiscono essere la casa, per l'appunto. Infatti insomma, è vero questo dato, scusa Alberto, che 3 italiani su 4 possiedono il tetto sopra la testa? Sì, siamo un paese di proprietari di case con una performance che non ha uguali al mondo. e così come siamo il paese, eravamo uno dei paesi più risparmiosi del mondo e lo siamo leggermente meno, ma comunque siamo in ogni caso sul podio, ecco, internazionale delle quantità di risparmio privato. Ed è infatti una grande, un grande asset, una grande ricchezza di tutto il paese, che controbilancia invece il terribile dato dell'indebitamento pubblico che ben conosciamo, la grande montagna che non riusciamo a scalare perché non riusciamo ad abbattere, quella del debito pubblico italiano. Senti Alberto, invece un pezzo forte di domani, questo è i dati oggi dell'Istat per quanto riguarda la casa, voi invece? Il pezzo forte di domani ragioniamo intorno a queste uscite della BCE, è vero che non ha toccato i tassi, però le cose che ha detto Draghi in conferenza stampa sono molto importanti, infatti sono stati salutati con grande favore dai mercati, cioè sostanzialmente la moral suasion che ha fatto Draghi presso i suoi consiglieri è riuscito a portarli a un'idea che anche la BCE possa fare iniezioni di liquidità nel sistema e possa mettersi a comprare bond sia pubblici che privati. Sono queste le misure non convenzionali? Le famose misure non convenzionali, il famoso bazooka che per ora Draghi ha attivato a parole, già questo è bastato a placare i mercati varie volte, ma che probabilmente prima o poi dovrà attivare anche nei fatti. Prima si scontava l'opposizione fierissima da parte del rappresentante della Bundesbank all'interno del board della BCE e oggi invece ha registrato l'unanimità del board, quindi anche la convergenza su questo obiettivo da parte della Bundesbank. E questo è un importantissimo obiettivo politico, diciamo così, della conduzione, della leadership di Draghi sulla BCE, molto importante. Grazie Alberto Rioli, molto importante anche il tuo contributo, ti ringrazio, grazie, ti saluto. A voi. Ciao. Buona Alberto, serata. Adesso anticipiamo un appuntamento che di solito è intorno alle 21.45, perché poi dopo dedichiamo più tempo a parlare di politica, sono tanti i temi oggi, anche questa in realtà è politica. Europa 24 notte. Verso le europee. Lo è, e come, perché appunto parliamo di elezioni europee, lo sapete, tutte le sere c'è un appuntamento qui a Effetto Notte, il 25 maggio si vota, è vero che tanti le sentono lontani da sé, però avete sentito anche prima all'inizio la voce di Beppe Grillo che si diceva sicuro che alle europee il Movimento 5 Stelle vincerà. Non so come la pensa Marco Furfaro, che saluto. Buonasera. Buonasera. Di SEL, che tra l'altro Sinistra Ecologia e Libertà non è si candida, ma si candida, questa cosa dovrebbe spiegarla Furfara alla gran parte della gente. Allora, dopo il successo che ha avuto Marine Le Pen col Front National in Francia, no? Che è anti-europeista, anti-euro, eccetera, dall'Italia si sono entusiasmati soprattutto la Lega e anche Fratelli d'Italia, che sono andati anche a parlare. Fratelli d'Italia, se non sbaglio, ieri Giorgia Meloni è andata in Francia per parlare con Marine Le Pen, per vedere come si può fare un qualche accordo, trovare dei comuni intenti. Voi come SEL invece non vi candidate anche voi direttamente come partito, se bene ho capito, ma lei è candidato nella lista europea di Tsipras, cioè del leader greco di Syriza, Alexis Tsipras, no? Che è un fenomeno che è scoppiato negli ultimi mesi, molti intellettuali italiani hanno aderito e SEL stessa. Quindi ci spiega un po' come avviene questa cosa di rientrare in un movimento europeo anziché portare o candidare il proprio partito singolarmente alle europee? Guardi, esattamente quello che dovrebbero fare tutti gli altri partiti italiani, perché le normative europee prevedono ora di candidarsi alle elezioni europee indicando il Presidente della Commissione europea, e noi facciamo già un'operazione di verità perché diciamo che il nostro candidato è, come diceva lei, il leader greco Tsipras, e mentre gli altri partiti italiani spesso nemmeno lo indicano oppure trovano facili nemici che evidentemente dà anche questa Europa. Però questa lista è simbolicamente e politicamente parte da questo leader greco, perché nonostante l'Europa abbia sostanzialmente quasi ucciso politicamente ed economicamente la Grecia, mettendola in condizione di una povertà dilagante, però è una povertà che riguarda tutta l'Europa. Oggi l'Europa sono 120 milioni di poveri, una generazione intera confinata nella precarietà, e soprattutto la disperazione che si accompagna alla sensazione che non hai più l'opportunità di risalire la china sociale. E allora arrivano i Marine Le Pen di turno, i Beppe Grillo di turno a trovare il facile nemico, lo straniero, il migrante. Sono 20 anni che ci raccontano questa storia, poi l'Italia non cambia mai, sprofonda, vanno pure al governo e sono facili nemici solo per consenso elettorale. Noi diciamo un'altra cosa, che l'Europa è un'Europa che ovviamente deve cambiare, perché quella di oggi impedisce agli stati di finanziarsi, ha una banca centrale che presta alle banche private ma non agli stati nazionali, che impedisce investimenti pubblici e anche delle politiche fiscali che possano regolare un mercato che ora è senza regole. Vede, se questa Europa fosse un'Europa che prevede il reddito minimo garantito, un salario minimo garantito, come ha introdotto tra l'altro la Germania ieri per legge, impedirebbe il dumping sociale, cioè quella brutta pratica di costringere le imprese a competere nella globalizzazione sul costo del lavoro, quindi assumendo e imponendo salari sempre più bassi, la corsa allo sfruttamento. E invece Alexis Tsipras, nonostante l'Europa si sia comportata con la Grecia come cavia da laboratorio per delle politiche che sono sotto gli occhi di tutti, che sono politiche che stanno portando un intero continente alla deriva, alla disperazione, dice no, l'Europa non è uscire dall'euro e tornare alle piccole patrie o ai nazionalismi, ma è semplicemente dare un'opportunità alle giovani generazioni e creare un'Europa solidale, che era un po' il sogno di Altiero Spinelli e che tra l'altro la lista anche in Italia nasce dalla forza di promozione di Barbara Spinelli, che era sua figlia, che diceva che l'Europa era qualcosa non solo per fare la pace uscendo dalle guerre, ma l'Europa era l'idea che dalle guerre si usciva, sì, e la pace si poteva costituire se tutti avevano uno stato sociale, l'opportunità di entrare nel mercato del lavoro, della formazione. Ecco, se l'Europa diventa questo, tutti noi abbiamo un futuro. Il ritorno al nazionalismo, le politiche di questi anni non sono certo la soluzione per nessuno. Marco Furfaro, quindi poi ritorniamo ai contenuti e magari dopo mi dice, ha fatto un discorso piuttosto ampio e articolato, quali sono i tre punti principali della lista, degli obiettivi, insomma, mi dica una cosa, quindi chi avesse simpatie per sé, le volesse votare l'europeo per sé, in realtà deve votare per la lista di Alexis Tsipras, giusto? Esattamente. Sì, è una lista plurale che comprende le ampie soggettività della sinistra diffusa, associazioni, esperienze di movimento, tante personalità che si sono battute su lotte sociali che vanno dai Notav ai Nuovo Mus in Sicilia, anche figure di esperienze generazionali che si sono battute contro il precariato, però le tiene insieme non la riunione di famiglia della sinistra diffusa, ma un'idea forte di altra Europa. Ecco, infatti si chiama l'altra Europa. Mi dice adesso molto sinteticamente, così diciamo arriviamo più all'obiettivo, quali sono i tre punti principali della lista l'altra Europa, appunto, con Tsipras? Allora, la prima è la ridefinizione dei trattati, e cioè la messa in discussione del cosiddetto fiscal compact. Se ne parla tanto in questi giorni, sostanzialmente significa, sulla pelle degli italiani in particolare, un taglio alla spesa di 50 miliardi di euro che vanno sempre poi a danno della povera gente. Ma al di là del taglio della spesa, il problema dell'Europa è che non può investire, non dà la possibilità né alla Banca Centrale Europea né agli Stati di investire per stimolare la produzione industriale, e questo è un punto fondamentale, perché oggi, come si sa, in Italia le imprese non assumono per la mancanza di contratti precari, ma non assumono perché non hanno la possibilità di assumere, perché non c'è lavoro. E quindi un grande piano per la riconversione ecologica, e serve però la modifica dei trattati. Il secondo, delle politiche fiscali comuni, e significa la redistribuzione delle risorse, cioè il reddito minimo garantito. In questo paese c'è una generazione prima e adesso quasi tutti quelli che escono dal lavoro, che sono esclusi da una tutela sociale, finiscono nella povertà. Il reddito minimo garantito c'è in tutta Europa, tra l'altro, lo prevede gli stati nazionali, tranne per caso in Grecia ed in Italia, che sono gli unici due paesi più in crisi, tra l'altro, e che prevede di dare un sostegno sociale a tutti coloro che stanno sotto una soglia di reddito per permettergli di rientrare nel mercato del lavoro e della formazione. E il terzo punto è la rinegoziazione del debito, che significa non pensare di cancellare un debito, che spesso è anche un debito privato per quanto riguarda l'Italia, e quindi verso le famiglie italiane, e lo dico perché si fa una grande magogia, ma significa mutualizzarlo, significa rateizzarlo, significa una solidarietà tra tutti i paesi europei per fare in modo che non ci siano i padroni dell'Europa, in questo caso anche la Germania, e gli egoismi nazionali che vincono rispetto ai paesi più deboli, ma che l'Europa metta insieme le proprie competenze, le proprie qualità, per sostenere anche le proprie difficoltà, ma per farne tutti insieme un valore aggiunto. Chiarissimo, grazie Marco Furfaro, grazie, lo ricordo, è della segreteria nazionale di SEL, candidato nella lista Tsipras. Grazie, buona continuazione. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci Roberta Giordano, sempre insieme a voi, la pagina Facebook di Effetto Notte è anche a vostra disposizione per i messaggi, le opinioni, anche gli sms al 349-238-6666. Dice Marcello, visto che siamo il paese più risparmioso e con debito pubblico disastroso, temo l'assalto al risparmio privato ad opera dello Stato. Questo è un timore di molti, insomma, ma certo non posso garantire io per quello che faranno i politici. Ci auguriamo che questa sia davvero la svolta buona. E intanto però vi ricordo, prima di affrontare il prossimo tema con l'ospite che saluterò tra poco, quali sono le notizie principali di questa giornata. Addio alle province, l'abolizione e legge, via libera definitivo alla Camera, Forza Italia grida al golpe. Costo del denaro, la Banca Centrale Europea tiene i tassi allo 0,25%, pronti a misure non convenzionali, ha detto Draghi. Nuovo arresto per Nicola Cosentino, l'accusa di estorsione e di concorrenza illecita. Immigrazione, Alfano lancia l'allarme e dice che ci sono 300-600 mila immigrati pronti a sbarcare in Europa, ma il Consiglio dei Rifugiati risponde che sono stime inverosimili. E poi la breve visita di Elisabetta a Roma, veramente una visita lampo, in cui ha incontrato Napolitano e il Papa. Saluto invece adesso un'altra Elisabetta, che non è la regina, ma Elisabetta Gualmini. Buonasera, professoressa. Buonasera. Presidente dell'Istituto Cattaneo, nota politologa. Professoressa, oggi è una giornata che è ancora più piena di temi, di questioni politiche rispetto a quello che sembra. Insomma, a parte la riforma del Rio sulle province, che è legge, e Forza Italia, e non solo, il Movimento 5 Stelle, SEL, hanno protestato, ma in particolare Forza Italia ha detto che è un golpe. Poi, nel tardo pomeriggio di ieri, Berlusconi aveva incontrato a sorpresa Napolitano. Non una sorpresa per Napolitano, ma un po' per noi, per l'opinione pubblica, per i giornalisti. Si è parlato ufficialmente di riforme, ma pare insomma abbiano affrontato anche la questione dell'agibilità di Berlusconi in vista del 10 aprile. Poi la ministra Boschi, che ha chiuso a Forza Italia dicendo sul Senato al momento non ci sono spazi per il Senato elettivo. Renzi, che ha incontrato Verdini. Grillo, che ha detto contro Napolitano, contro il Colle, a proposito dell'incontro con Berlusconi, ha detto una cosa vergognosa per tutti gli italiani. Insomma, ce ne sono parecchie di fettine, diciamo, sulla brace. Ma in particolare, per esempio, questa cosa di Berlusconi, che è ritornato un po', no, a intervenire dopo essere stato, diciamo, un po' dietro le quinte per un po', effettivamente si può confermare che c'è effettivamente questa richiesta nei confronti di Napolitano di concedergli quella che si definisce l'agibilità, un atto di clemenza rispetto al 10 aprile, in cui, quindi veramente tra una settimana, in cui i giudici dovranno decidere se mandarlo agli arresti domiciliari o ai servizi sociali? Ma certo, dunque è vero, è stata una giornata altamente movimentata per tutti gli eventi che lei ha citato. Berlusconi è andato dal Presidente della Repubblica, e secondo me il Presidente della Repubblica ha fatto benissimo ovviamente a riceverlo, perché comunque certo, è ancora il leader e rappresentante del terzo partito italiano. Penso che Berlusconi abbia avuto vari obiettivi, cioè in primo luogo quello di insomma testimoniare che appunto è ancora lui il rappresentante del principale partito del centrodestra, di fare anche un tentativo di apparire come padre della patria, cioè come comunque una persona che partecipa, anche se con alcuni distinguo, al quel discorso riformista di cambiamento che si sta effettuando in Italia, quindi di far capire che non c'è solo Renzi, ma che tutto sommato ci sono anche loro nel famoso patto. E infine, da quello che si legge, penso che sia verosimile che Berlusconi abbia in qualche modo chiesto un piccolo forse aiuto al capo dello Stato in vista di questa agibilità politica. Non si capisce però bene come possa il Presidente sia concedere la grazia, anche perché non è che la può chiedere Berlusconi, ma insomma ci sono dei precisi vincoli, oppure si parla addirittura di poter fare pressioni per rinviare la decisione del Tribunale di Milano dopo le elezioni europee, ma insomma ipotesi che mi sembrano un po' inverosimili. Leggo alcuni messaggi che stanno arrivando sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Giuliano dice: ormai il due Torenzi Napolitano ha concesso a Berlusconi qualsiasi cosa, tanto vale dargli la grazia, fargli vincere la Champions League ogni anno e dargli l'Oscar a carriera. Enzo ed Elena scrivono: in galera Napolitano, poi il principale responsabile del degrado istituzionale del nostro paese. Insomma, vari punti di vista. Arturo: sono più di 20 anni che gli concedono tutto, sarebbe ora di far sì che le leggi siano uguali per tutti. Ma quello che può sorprendere, già, poi magari con un'analisi più approfondita, è la reazione del PD, il quale ha detto a Grillo, la reazione a Grillo. Grillo Grillo oggi indignato sul blog ha detto una cosa vergognosa questo incontro concesso da Napolitano per tutti gli italiani, perché un condannato in via definitiva ha chiesto e ottenuto di essere ricevuto dal Presidente della Repubblica. Che messaggio viene dato al Paese, dice Grillo. E il PD subito ha replicato dicendo... Il capo dello Stato a luglio scorso aveva visto anche un altro condannato, Beppe Grillo. Nessuno allora gridò allo scandalo. Ma secondo lei, professoressa Guelmini, il PD è intervenuto e ha difeso Berlusconi, una cosa abbastanza inconsueta, no? Almeno rispetto alla storia di fino a ieri. È intervenuto per difendere il Presidente della Repubblica Napolitano, per difenderlo anche perché tra l'altro è un altissimo esponente del PD, oppure per tenere saldo questo patto con Berlusconi sulle riforme? Ma... Io penso per tenere assolutamente agganciato quel filo e quel patto che consente di fare le riforme, insomma sicuramente anche a difesa del Presidente della Repubblica, però ciò che preme al PD ovviamente è avere i numeri per far passare queste riforme davvero epocali a cui stiamo osservando in questi giorni. Tra l'altro si osservano sempre più delle fronde interne sia a Forza Italia sia allo stesso PD, ad esempio sul Senato, quindi non sarà proprio una passeggiata. Bisogna dire una cosa molto importante però, che lo scenario che si sta stagliando all'orizzonte nel nostro paese, che è un po' preoccupante, è in realtà di questo duello molto forte, molto violento tra un partito di sistema come il PD e un partito antisistema che è il Movimento 5 Stelle. Quindi stiamo assistendo ad uno strano bipolarismo che non è più tra destra e sinistra, ma che è di fatto tra Grillo e Renzi. Questo non è il massimo per le democrazie, nel senso che sarebbe comunque auspicabile che il centrodestra riuscisse prima o poi, insomma, al di là e a prescindere da Berlusconi, a riorganizzarsi per ristabilire un normale conflitto, perché adesso siamo nel mezzo davvero di questa forte contraddizione tra questi due partiti. Le faccio sentire, professoressa Guelmini, Renzi, che questa sera era 8:30 da Lilli Gruber, è stato un taglio velocissimo visto che si stava andando in diretta. Sentiamo cosa ha detto a proposito del patto con Berlusconi. Io spero che Forza Italia resti nell'accordo e che quindi anche Forza Italia, anzi sono convinto che anche Forza Italia voterà il superamento del Senato, la modifica del titolo quinto e l'abolizione del CNEL. Anche se appunto Berlusconi spinge da un po' di giorni sulla priorità dell'Italicum, no? della riforma della legge elettorale, dice perché prima il Senato. Sul Senato Forza Italia neanche molto d'accordo, però Renzi dice reggerà. È possibile che Berlusconi invece instauri una specie di braccio di ferro su questa cosa della sua agibilità politica, un po' come scambio rispetto... Ma penso che ci stia pensando e forse ci abbia anche già provato, non so però quanto questo sia effettivamente realizzabile, plausibile come scambio. Sicuramente ci sono dei mal di pancia sempre più forti anche dentro al partito di Berlusconi su questa composizione del Senato, per esempio il fatto che sia prevista la presenza di moltissimi sindaci fa sì che ci sarà una prevalenza del PD di fatto, perché come noto le città italiane sono in maggioranza governate da sindaci del PD rispetto al PDL, quindi su questo Berlusconi chiaramente ha storto il naso e su altre cose ritiene Forza Italia che la riforma sia perfettibile. Io penso in realtà che ci siano delle chance perché questa riforma vada avanti, per esempio il fatto che nessuno in Parlamento vuole andare a votare, quindi Renzi ha dalla sua un'arma potentissima, per cui alla fine penso che comunque vada, anche se con qualche pasticcio sul piano tecnico, è probabile che ci sia l'abolizione del Senato. Sentiamolo invece Renzi a proposito delle polemiche all'interno del PD, perché ci sono comunque tensioni sia rispetto alla questione del Senato, che era stata messa in rilievo in particolare dal Presidente del Senato Grasso che del PD, ma anche su poi le questioni legate al Jobs Act, cioè quindi alla riforma del lavoro. Sentiamo che cosa ha detto sempre 8:30. I senatori del Partito Democratico hanno presentato un progetto di legge costituzionale che non ha alcuna chance di passare, a mio giudizio, non al Senato e non alla Camera, perché l'esercizio del progetto di legge costituzionale non è un esercizio retorico e demagogico fine a se stesso, deve avere un po' di numeri, perché altrimenti se non hai i numeri non passi, ma è un progetto di legge interessantissimo, per carità, che... è d'accordo su 3 dei 4 paletti che il governo ha posto. Noi abbiamo detto il Senato non deve dare la fiducia, il Senato non deve votare la legge di bilancio, il Senato non deve essere elettivo e non deve avere indennità. Diciamo che è d'accordo su due, perché loro l'indennità la vorrebbero lasciare ai senatori. Io no, perché penso che in Italia 1000 parlamentari siano troppi. E che se loro propongono il dimezzamento dei deputati, ecco, ma come mi faccia dire una cosa. Affronterà questo problema? Lei mi problema dice, ma il PD cosa fa? Il PD si è presentato, uno dei pochi partiti che lo fa, in un dibattito tra di noi che si chiamano primarie, dove i candidati hanno presentato le proprie proposte di legge. Io ho detto le cose che avrei voluto fare se avessi vinto. Ho vinto le primarie, ho portato negli organi di partito la discussione. E ho detto, secondo me, noi dobbiamo fare questo, questo e quest'altro. Quando siamo riusciti a ottenere l'accordo e il consenso del PD, che ha votato su questa proposta di legge, siamo andati a fare la discussione con gli altri alleati, perché bisogna discutere con gli altri. Abbiamo raggiunto l'accordo. Ora c'è sempre qualcuno che alza un po' l'asticella. Io la vedo così. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Prendiamo l'aspetto positivo di alcuni senatori che vogliono dare un contributo ulteriore. Insomma, non è preoccupato, ecco come si concludeva. Ma bisogna dire che Renzi ha completamente nelle sue mani il partito, o meglio, che il PD ormai è una struttura al servizio del leader, cioè davvero sta diventando un partito quasi personale, nel senso che Renzi si sta rafforzando moltissimo anche nell'opinione pubblica, nel mondo internazionale, sta irrobustendo molto la sua leadership, e quindi francamente la minoranza PD, a mio parere, in questa fase non è particolarmente forte. Quindi tra l'altro Renzi sta cavalcando molto anche questo contrasto tra cambiamento e conservazione, quindi alla fine è un gioco che gli riesce bene, perché fa apparire tutti quelli che appunto alzano la mano per così elaborare qualche critica come dei conservatori, dei parrucconi, eccetera eccetera. Quindi finora direi che nella posizione di forza c'è Renzi. Certo, stiamo ad osservare, insomma, vediamo, perché abolire una camera da parte di chi ci abita, francamente non è un'operazione proprio facile. Un po' contro natura, possiamo dire. Esatto, ecco, esatto. L'ultima dichiarazione vedo di Grillo, di Renzi, che dice: se Grillo ottiene un voto in più dal PD alle europee, lei lascia, e ha chiesto probabilmente ancora 8,5, e lui dice: per quale motivo noi stiamo facendo le riforme, lui vota contro. Quindi anche se ci dovesse essere, come Grillo ha annunciato oggi, la vittoria, noi vinceremo, Renzi dice non vado avanti, insomma, mette le mani avanti, ecco, in questo senso. Bene, professoressa, sì. Elisabetta Guelmini, io la ringrazio, la saluto. Grazie a voi. A presto, buon lavoro, a buona continuazione. Arrivederci. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Anzi, in pochi secondi ve le ricordo adesso, a partire da l'addio alle province. Forza Italia non ci sta, e oggi attraverso Brunetta ha gridato al golpe. Renzi intanto ha visto Verdini, e poi per quanto riguarda il costo del denaro e la crisi, il generale Draghi, governatore della Banca Centrale Europea, ha detto: temo la stagnazione, pronti anche all'acquisto di bond, i tassi restano fermi e giù lo spread. Elisabetta a Roma per un giorno, parleremo tra pochissimo della sua visita a Lampo, e poi un nuovo arresto per Cosentino in carcere con i due fratelli, inchiesta della direzione distrettuale antimafia, una rete a questa l'accusa con i casalesi per favorire affari di famiglia. E adesso introduciamola quindi la visita di Elisabetta II oggi a Roma. Nell'epoca della rottamazione spinta lascia il segno la visita Lampo a Roma della regina Elisabetta, 88 anni il prossimo 21 aprile, accompagnata dal quasi secolare consorte Filippo, duca di Edimburgo. Sua maestà, con un ben visibile completo color glicine, è stata prima al Quirinale per una colazione privata da Giorgio Napolitano, il più british e il più longevo dei nostri presidenti. Passati indenni tra due secoli, Elisabetta e Re Giorgio si sono ritrovati come vecchi soci di uno stesso club, in cui entrano giovinastri poco avvezzi alla tradizione, come quel Renzi e quel Cameron, così sguaiati e fastidiosamente popolari. Avranno mai partecipato alla caccia alla volpe, pare abbia detto il duca di Edimburgo. Poi i reali britannici sono andati da Papa Francesco, al confronto un ragazzino di soli 77 anni che smanetta su Twitter. Nello studio di Paolo VI, la regina, che è anche capo della Chiesa anglicana, si è integrata perfettamente agli arredi vaticani. Una breve udienza, finita alle 16, in un'atmosfera di cordiale rispetto, con l'immancabile scambio di doni, tra i quali un'antica pergamena per Elisabetta e una cesta di prodotti biologici del giardino reale per il pontefice. Forse il più emozionato era proprio Francesco, più a suo agio con le corone di spine che quelle reali. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso, questo è quindi il racconto anche ironico della giornata. Vorrei interpellare un giornalista, scrittrice, grande esperta di famiglie reali, ha scritto molti libri, molti saggi su questo tema, Enrica Roddolo. Ciao Enrica. Buonasera. Enrica, quindi questa è un po' la cronaca della giornata, no? Anche con qualche vena umoristica. Ma tra l'altro la regina, intanto non Elisabetta II non andava all'estero ad almeno 3-4 anni, mi sembra, per questioni di salute. Sì, da almeno 3 anni effettivamente. Ha molto diradato i suoi impegni all'estero. Da qualche tempo, d'altronde, l'età comincia a farsi sentire, anche se l'abbiamo vista. È forma, insomma, 88 anni. E che dire del Duca di Edimburgo, a 92 anni, veramente un fisico assolutamente invidiabile. Diciamo che fare il re, cioè la regina e il principe consorte, evidentemente non stressa più di tanto, non sfibra, ecco, no? Veramente un ma ritmo. Io credo che sia anche l'allenamento duro degli anni di gioventù che ha vissuto la regina Elisabetta. Non dimentichiamo che è nata sostanzialmente in tempo di guerra, quindi è cresciuta in un momento in cui la vita in Gran Bretagna, come in tutta l'Europa, era molto difficile, anche per questo motivo, perché molto legata a quel periodo storico, ha consentito ad essere presente anche alle grandi celebrazioni per la ricorrenza del D-Day che ci sarà il prossimo giugno in Normandia. Mm. E questo sarà l'unico altro viaggio di questo 2014 per adesso programmato. Come mai, Enrica, hanno scelto proprio l'Italia? Poi anche così poche ore, essendo pur grandicelli d'età, non è che hanno detto ci passiamo due giornate tranquilli. Arrivati verso l'aereo è atterrato verso le 12.30 a Ciampino, alle 16.30 già era in partenza, no? Ma intanto l'Italia, perché c'era una promessa con il presidente Napolitano, che, come avete giustamente ricordato, condivide molti aspetti della sua vita professionale di capo di Stato ed anche del suo percorso storico, del suo bagaglio culturale con appunto la regina Elisabetta. Ecco, nei suoi confronti c'era una sorta di intento lo scorso anno, quando per causa di quella brutta gastroenterite sua maestà aveva dovuto rinunciare al viaggio in Italia, che in qualche modo avrebbe ripagato questo sacrificio che doveva fare appunto il Quirinale, rinunciando ad accoglierli in quell'occasione. E perché così velocemente? Che in realtà l'agenda degli impegni della regina Elisabetta, nonostante viaggi all'estero molto meno rispetto al passato, e sarà molto concentrata a questo punto, no? Di sua maestà sono veramente tantissimi, si parla di una cosa tipo 200-300 impegni l'anno all'interno del suo paese, che vanno dalle cose più cerimoniali nel segno di quella cosiddetta pomp and circumstance. Un piccolo esempio di pomp and circumstance, quindi di solennità e cerimonialità in perfetto stile british, l'abbiamo vista anche oggi quando nel cortile d'onore del Quirinale appunto sono state i corazzieri hanno fatto gli onori alla regina e c'è stato quel commovente momento in cui i due inni nazionali sono stati intonati appunto in onore della regina e del presidente. Tra l'altro, a proposito di incontri, anche quello col Papa è un incontro particolare, a parte che naturalmente la prima volta con Francesco, visto che è da poco tempo che è Papa rispetto ai viaggi che ha fatto la regina in Italia, ma poi la questione è che lei è capo della Chiesa anglicana, quindi due chiese che si incontrano. Assolutamente. Una curiosità, intanto non dimentichiamo che nel 1953, quando la regina Elisabetta prese il potere effettivamente nel 52, perché nel 52 venne a mancare il padre, re Giorgio VI, però la procedura di incoronazione di un sovrano secondo le regole di casa Windsor è così complessa e risale come cerimoniale a tempi medievali, per cui soltanto organizzare tutta la procedura prende molti mesi, tanto è vero che fu incoronata soltanto nel giugno del 53. In quella incoronazione il rituale prevedeva ancora l'unzione con l'olio consacrato. Questo per dire il valore simbolico anche che ha la religione in tutto il contesto della monarchia britannica, e addirittura negli anni 60, credo fosse il 1964, ci fu un sondaggio tra la popolazione britannica, ebbene ancora un terzo della popolazione era realmente convinta che insomma il ruolo destinato alla sovrana, nella fattispecie Elisabetta, derivasse da diritto divino. Ora le cose sono cambiate, c'è un'altra tra virgolette laicità, però rimane il fatto che la sovrana è defender of the faith, e si dice a Londra regna by grace of God, quindi per grazia divina. Amministra la sua autorità. Poi chiaramente l'aspetto più religioso è officiato direttamente dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Enrica Rodolo, abbiamo proprio ancora 40 sì. secondi, 50 secondi, evidentemente non regnerà per grazia divina Carlo, non so per quale grazia mai potrebbe. Beh, adesso a questo punto non ci resta che aspettare il viaggio oltreoceano di Kate William e il piccolo principino George, che partiranno alla volta della Nuova Zelanda tra pochi giorni, e dell'Australia, per un viaggio che li porterà appunto per diverse settimane fuori dal regno di Sua Maestà, e che ripeterà un pochino le orme, ripercorrerà le orme del viaggio compiuto dalla principessa Diana con il principe Carlo, con un piccolissimo principe William. E anche con diciamo alcune differenze. Bene, ti ringrazio Enrica Roddolo, grazie Enrica, grazie lunga vita alla regina allora. Lunga vita alla regina. A dopo.